Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Se una persona che lavora, vive in Italia, che ha la residenza, è giusto che comunque se il bambino nasce in Italia che abbia la cittadinanza italiana? Per me io dico di no, perché l'Italia è piena di stranieri, non per cattiveria. Mio figlio è nato qua e spero che prenda la cittadinanza. Non so se definirla follia, assurdità, cioè quella dei bambini di immigrati nati in Italia che non diventano cittadini italiani. Noi ne abbiamo oramai, abbiamo dei bambini immigrati centinaia di migliaia che frequentano le nostre scuole e una quota non trascurabile sono nati in Italia. Mia proposta, al termine di un ciclo scolastico, quei ragazzi che sono stabilmente in Italia, ovviamente, perché hanno le famiglie. Mi sembra chiara la premessa. In Italia ci sono oltre 1 milione di bambini stranieri, nati da genitori stranieri, ma stranieri soltanto perché a vederli si capisce che non sono nati in Italia, ma a tutti gli effetti vanno a scuola con i nostri figli, vanno ai giardini il pomeriggio con i nostri figli, fanno le attività sportive con i nostri figli. I genitori a tutti gli effetti sono regolari, svolgono professioni regolari, stanno a fianco a noi molte volte negli ambienti di lavoro. Però ci sono delle difficoltà perché questi bambini siano considerati italiani. Oggi cercherò di toccare questo problema, lo vedremo in tutti i suoi aspetti, gli aspetti giuridici, le proposte di legge, le iniziative popolari, l'iter, ma io vorrei una risposta viscerale dei nostri ascoltatori. Perché, qualora ci sia una reticenza nel far passare questo principio, ci siano delle resistenze, su cosa è motivato? Dobbiamo salvaguardare la stirpe italica? Abbiamo paura che una persona color marroncino, color ocra scuro, color rosso mattone possa in qualche maniera cambiare la nostra struttura fisica e morfologica? Cosa temiamo? Ormai ci sono, quelli regolari hanno una loro funzione, altrimenti non starebbero qui. Entrate, se ne è mai entrati in una scuola elementare italiana, una media scuola elementare pubblica o anche una scuola media? Beh, guardate che nei banchi si vedono molto più persone che palesemente non appartengono alla nostra immarcescibile stirpe italica, e quindi questi a tutti gli effetti ormai fanno parte del nostro paese. Esiste ancora una possibilità giustificabile di difendere l'integrità dell'appartenenza all'Italia? O è un principio un po' vecchio, un principio fra i tanti che andrebbe forse sovrascritto? 800240024. Teoricamente dovrebbero aver diritto alla cittadinanza dopo i 5 anni. Siamo pieni i coglioni di questa gentaglia qua. Non sanno vivere, devono imparare a vivere in Italia. Non la darei subito, ma dopo che sono riusciti a formarsi e a vivere adeguatamente al nostro tenore in Italia. Perché aspettare 18 anni? Lei è nata in Italia. Mi spiace per i bambini, ma qui in Italia fra poco andiamo via noi italiani, andiamo all'estero e loro si occupano, si prendono l'Italia. Sono furbo pure straniero. Ripeto il numero 800240024, mi piacerebbe capire le ragioni di resistenza, le ragioni emotive, le ragioni ingiustificate, non sedimentate, non supportate da un'attenta analisi di quelli che sono tutti gli strumenti e tutte le soluzioni usate e applicate in altri paesi d'Europa, perché poi parleremo di numeri naturalmente. Filippo Miraglia, buongiorno. Buongiorno. Allora, Filippo Miraglia, che è responsabile di immigrazione ARCI, fa parte, diciamo, della fazione di quelli, parlo di fazione a questo punto, così è più facile capire i pro e i contro, perché gli italiani capiscono soltanto i sistemi binari, bianco e nero, rosso e nero, sì, no. Lei fa parte delle persone che si stanno muovendo in maniera decisa perché passi l'idea che una persona nata sul territorio italiano, con genitori che lavorano in Italia, regolari, che frequenta le nostre scuole, abbia la cittadinanza italiana. A questo punto, qual è oggi la situazione innanzitutto? Cosa chiedete voi? Come fronte dell'accoglienza, diciamo, ad essere cittadini italiani? Sì, io grazie, direi piuttosto il fronte dell'uguaglianza più che dell'accoglienza. No, perché poi avremo anche un rappresentante del fronte, certo. Assolutamente. La situazione è questa: noi abbiamo in Italia circa 5 milioni di stranieri residenti regolarmente in Italia, diciamo in prevalenza per motivi di lavoro ovviamente, e abbiamo negli ultimi 10 anni una situazione in cui, diciamo in media, dico in media perché ci sono stati ovviamente degli alti e dei bassi, sono aumentati gli stranieri in Italia di 350.000 unità all'anno dal 2002, cioè da quando è stata approvata dalla Bossi Fini, esattamente. I 10 anni della Bossi Fini sono stati 10 anni in cui in Italia c'è stata l'esplosione della presenza degli stranieri, in termini numerici ovviamente, perché poi si è trattato di un fenomeno assolutamente sociale, assolutamente normale. Ma non è un paradosso dalle intenzioni di questa legge, adesso una legge che regolamentava? Direi che qualche domanda, diciamo, gli estensori anche. Cioè, oggi poi sono cambiate le persone, ma quando la fece era una legge doveva abbassare le barriere, cioè alzare delle barriere. Erano tutti contenti. In realtà le barriere le ha alzate, però ha ottenuto comunque, diciamo, con tutta evidenza, anche con le barriere alzate, queste persone hanno continuato ad arrivare in Italia, sono arrivate in Italia comunque e sono riuscite, anche grazie a quel governo che ha fatto una sanatoria a cui hanno avuto accesso più di 650.000 persone, sono riuscite comunque a ottenere un titolo di soggiorno e sono in Italia adesso e lavorano, hanno famiglia, figli, eccetera. Quindi il dato che la Bossi Fini ha fatto aumentare gli immigrati in Italia. Di fatto è andata così, e dal loro punto di vista è fallita. Io penso che non ci sia una questione di fallimento, diciamo non hanno potuto opporre resistenza, perché si tratta di persone che comunque hanno aggirato la legge e poi, a causa del fatto che c'era una grossa presenza di persone senza permesso di soggiorno che lavoravano in Italia, tra tutti più della metà che fanno lavori domestici o di cura, quindi di assistenza agli anziani, ai malati, ai bambini, eccetera. Cioè, crudamente, chi cambierebbe il pannolone ai nostri anziani se non ci fossero gli immigrati? E quindi... Sì, diciamo, è anche, soprattutto perché non ci sono i servizi sociali che lo fanno, è anche così, però oggi bisogna tener conto del fatto che se tu hai un certo numero di persone che tentano di arrivare in Italia per cercare lavoro e poi lo trovano perché questo lavoro in Italia c'è, se fai una legge sbagliata che non funziona, l'unica cosa che fai è che produci razzismo, non che fermi le persone. Però, a questo punto com'è la situazione? Allora, un bambino che nasce in Italia regolari. Oggi abbiamo circa 80.000 bambini negli ultimi anni, quasi 80.000 bambini da genitori stranieri che nascono in Italia. Questi 80.000 bambini ogni anno che nascono in Italia saranno stranieri fino a 18 anni. Quindi, diciamo, sono bambini che parleranno perfettamente l'italiano, con accento di Roma, di Milano o di Palermo. Come accade chi ha figli piccoli, esatto, lo sa? Io ho figli piccoli, hanno compagni di classe di varie origine, però questi bambini e i loro genitori, quando si avvicinano ai 18 anni, hanno l'ansia di sapere se ce la faranno, per esempio, a diventare italiani, perché la legge lo consente. Se uno è nato in Italia da genitori stranieri e non si è mai allontanato dall'Italia, quindi deve avere una residenza, può fare domanda stabile comunque al sindaco, chiede di fare di diventare cittadino italiano e ha un anno per farlo, cioè dai 18 ai 19 anni. Finora molte famiglie di origine straniera non lo sapevano e quindi molti bambini perdevano l'occasione, e superata quell'opportunità possono fare come gli altri stranieri domanda di naturalizzazione, dimostrando che sono stati per 10 anni in Italia, e devono dimostrare però anche tutta una serie di condizioni, il reddito. Quanto tempo passa di media? Ormai non meno di 3 anni per quelli che chiedono la naturalizzazione. C'è un ingorgo ormai al Ministero dell'Interno, tant'è che il Ministero dell'Interno di recente ha anche deciso di decentralizzare le domande di naturalizzazione per matrimonio. Fermiamoci solo un secondo, 2 ascoltatori. Alessandro. Sì, buongiorno. Molto velocemente. Sì, no, io l'unica cosa che mi chiedevo era questa: nessun problema per quanto riguarda il fatto della cittadinanza, però mi chiedevo, ma dato che loro comunque provengono da genitori che hanno una sorta di educazione, ma sia a livello civico che religioso, differente da quella nostra, come poteva in qualche modo... Beh, mica sempre, tutta la frangia latinoamericana sono esattamente... No, però la maggior parte dei bambini, credo che la maggior parte, poi se c'è un dato diverso magari sarà lei a dirmelo, provengono comunque da paesi, parliamo paesi islamici, dove hanno comunque una sorta di religione, anche modi di vivere completamente diversi. Ma la religione cosa c'entra con l'appartenenza? No, le spiego, cioè, il fatto che i genitori danno una sorta di educazione che poi dopo va a scontrarsi con quello che i bambini o i ragazzi vivono quotidianamente con i loro coetanei. Allora chiedevo come è possibile poter in qualche modo cioè cercare di creare una sorta di equilibrio tra un'educazione civica e religiosa. Non perché, ma perché religiosa la mette sempre in mezzo? Scusa, non voglio contrastare il suo idea, certo. Ma che c'entra con uno stato civile la religione? Le faccio un esempio. Ci sono stati dei casi, anche se non magari il numero non è così importante, ci sono stati dei casi in cui il fatto di non portare il velo o di fidanzarsi con ragazzi non accettati dai genitori, magari ci sono stati degli episodi abbastanza spenti. Ci sono state anche persone che hanno ammazzato figli, c'è stato di tutto. Ma qua parliamo del fatto del... Ma anche padri italiani l'hanno... ieri un padre italiano che ha buttato il figlio nel Tevere, sai, per sì, questo è ovvio, però qua parliamo di bambini stranieri, perciò ne parlavo come una sorta di... Comunque le dico, la prima comunità nazionale sono rumeni, quindi figuriamoci, sono anche di ceppo caucasico, così la rassicura, e 1 milione di questi sono cristiani, quindi a tutti gli effetti esiste il suo problema, non è il problema principale. Angela. Buongiorno Nicoletti, io premetto che non sono contraria per partito preso, non mi spaventano tanto i sudamericani, né i rumeni, né i russi, ma gli islamici sì, basta andare, sono stata ricoverata in un reparto di maternità, il 70% sono islamici, bambini che nascono, non è la religione che mi spaventa, quanto il fatto che questi bambini, perché hanno un'educazione molto radicalisti, sono islamici, perché io li vivo tutti i giorni, sia in città che nel mio palazzo, tra 20-30 anni, quando questi bambini avranno diritto di voto, noi consegniamo il paese all'Islam, e questa cosa mi spaventa tantissimo, perché io li vedo, e li vedo tutti i giorni, le idee che hanno, la durezza che hanno nei nostri confronti loro. E quale potrebbe essere la soluzione, signora? Non lo so quale sia la soluzione, però no, assolutamente io sono democratica a livello ma lei pone un problema che è inutile, però questa cosa mi spaventa. Sì, ma lei ha ragione, guardi, io sono tutt'altro che buonista. Quelli dicono fratello, assolutamente non ho fratelli, nemmeno quelli di sangue, ho rinnegato anche quelli, si figuri, non è questo il problema. Sto cercando di capire un problema di tipo giuridico, poi tutte le paure ne tengo conto e non le escludo, chiaro, potremmo avere una cittadinanza di tutte donne col velo e di tutti uomini che pregano un tot di volte al giorno verso la Mecca, e potremmo arrivare alla lapidazione delle adultere, potrebbe anche essere questo, però io pongo il problema in linea di massima, un problema di tipo civile, di tipo giuridico istituzionale. Cecilia Guerra, buongiorno. Buongiorno. Onorevole Cecilia Guerra, sottosegretario del Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali e delle Pari Opportunità. Mi sembra che lei sia il personaggio delle istituzioni che più sta spingendo verso questa legge, o mi sbaglio? Beh, dal punto di vista personale, perché ovviamente il governo su questo non ha deciso di non pronunciarsi, di non anticipare scelte che dovrebbero essere del Parlamento. Io comunque dal punto di vista personale, anche perché mi occupo poi istituzionalmente di immigrazione, sono arrivata alla convinzione. Mi risponda alle due telefonate state prima, sì. Allora, da un punto di vista proprio personale. Allora, prima cosa, bisogna capire che il fenomeno dell'immigrazione è molto cambiato nel nostro paese e che quindi non siamo più di fronte a un problema di flussi, cioè di persone che arrivano nel nostro paese, ma abbiamo una comunità stanziale molto numerosa, i lungo soggiornanti in Italia sono la metà degli immigrati che conosciamo, abbiamo molti ricongiungimenti familiari e molte nascite, quindi seconde generazioni, quindi abbiamo una comunità che è integrata nel nostro paese, quindi non è più un problema di capire quanti fare entrare di immigrati, perché abbiamo dei posti di lavoro che gli italiani non vogliono fare, come era nella logica della Bossi-Fini, ma è proprio un problema di capire che cosa facciamo dei milioni di persone che sono presenti in Italia, quindi è un dato oggettivo, questa comunità si è accresciuta cresciuta ovviamente anche con l'allargamento della immigrazione comunitaria e quindi con l'ingresso dalla Romania e dalla Bulgaria, come lei ricordava. In maggioranza si tratta di persone di religione cristiana, giusto per... 54%, sì, appunto, quindi cioè, vabbè, ma questo diciamo... Quindi ancora salva, diciamo, il paradiso, sì, non ce lo perdiamo, ecco. Non ce lo perdiamo ancora, ma comunque per dire che insomma talvolta anche non si conosce la questione. Però abbiamo persone che sono, famiglie che sono in una condizione molto spesso di esclusione sociale, cioè che pur... avendo un'intensità di lavoro mediamente più alta di quella delle famiglie italiane, hanno una quota di persone a rischio di povertà e persone esposte a grave deprivazione materiale, come si dice, cioè ad esempio l'impossibilità di fare un pasto decente un giorno sì un giorno no, ha un'incidenza più che doppia di quella delle famiglie italiane. Quindi noi abbiamo chiaramente un problema di inclusione sociale, di integrazione che dobbiamo porci. Io lo faccio anche perché ne sono convinta dal punto di vista morale, etico, però anche che uno non avesse le mie stesse convinzioni deve porselo proprio per la tenuta della coesione sociale del nostro paese, perché sono cifre su cui non ci si può nascondere. Cioè lei ci vuole dire, onorevole Guerra, che in realtà al di là del pregiudizio, delle paure, delle lecite attenzioni a vedere persone diverse che potrebbero scalzare quello che noi consideriamo un caposaldo della nostra civiltà, razionalmente converrebbe a tutti che passasse l'idea che un bambino che nasce in Italia fosse immediatamente, in tempi brevi, cittadino italiano. Beh, per quanto riguarda le seconde generazioni, cioè specificamente il bambino che nasce in Italia, allora io credo di intercettare anche un sentimento molto diffuso a livello nazionale, perché noi abbiamo fatto come Ministero con l'Istat una inchiesta molto specifica sui migranti come sono visti dai cittadini italiani, e alla domanda quanti sarebbero favorevoli al riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli immigrati nati nel nostro paese, il 72,1% degli italiani si dice favorevole. E questo perché, siccome abbiamo 700.000 bambini che frequentano le scuole, bimbi e ragazzi che frequentano le scuole assieme ai nostri, è visibile agli occhi di tutti che si tratta di bambini nati in Italia che non sanno neanche niente del loro paese di origine, che hanno tutto in comune con i nostri figli, e tenerli fuori dalla cittadinanza è proprio una crudeltà, una forma di esclusione sociale molto pesante e non giustificata. Infatti io penso che chi abbia un ragazzo che va a scuola avrebbe veramente il polso del problema. Non avendo questa esperienza è un po' difficile dare un giudizio sereno, ma andate, se volete togliervi proprio la curiosità, all'uscita di una scuola italiana media pubblica e guardate esattamente qual è la percentuale di persone che palesemente non sono persone che vengono da genitori italiani. Ioana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Stavo ascoltando con molta attenzione la signora di prima e parlava di crudeltà. Credo che in realtà abbia ragione. Io sono quasi 14 anni che abito in Italia. Sono di origine rumena, come sapete la percentuale più alta in Italia sono di nazionalità rumena. Io ho chiesto la cittadinanza 4 anni fa, nonostante io mi sto laureando in scienze motorie, quindi a tutti gli effetti credo di meritare la cittadinanza. Nonostante ciò mi hanno detto che non sono in regola con tutti i documenti, mi hanno chiesto di tutto e di più, e purtroppo alla fine ho rinunciato perché è troppo... Per lei perché sarebbe importante, Ioana, diventare cittadina italiana? Perché nel mondo lavorativo comunque mi cambierebbe molte cose. Io insegno ginnastica artistica alle bambine, quindi anch'io, come la signora, come diceva, all'uscita delle scuole diciamo che il 40% dei bambini, sia delle elementari che delle medie, sono di origine straniera e anche anzi europea, perché comunque rumeni e insomma altri paesi sono insomma il problema dell'Europa. Il problema di cui parliamo oggi naturalmente è legato ai bambini. Se lei avesse un figlio all'indomani avrebbe piacere e desiderio che fosse subito cittadino italiano invece che aspettare 18 anni. Sì, perché io voglio vivere qua, io mi sono integrata perfettamente, quindi se il mio bambino arriva a fare 18 anni qui in Italia, credo che dopo 18 anni non credo che uno vorrebbe tornare nel proprio paese dopo 25 anni. Pronto, è caduta la linea, non è che abbiamo interrotta noi. Allora sentiamo Carlo Panella, buongiorno, giornalista. Buongiorno. Panella rappresenta invece al fronte le persone che sollevano delle eccezioni circostanziate e motivate alla cittadinanza ai bambini stranieri nati in Italia. Cominciamo a mettere sul piatto quelle che sono il tuo punto di vista, al di là del fatto che fanno paura agli islamici, che sono cattivi, giustamente. Ma figurati, Su questo ci sta già tutto, è logico. Ma non c'entra niente, la maggior parte degli immigrati in Italia non sono islamici. Ma il punto primo è sintomo dell'ideologia della sinistra, mi spiace anche della sottosegretaria Guerra, il fatto che ci si occupi della cittadinanza invece del problema che noi rubiamo agli immigrati, noi italiani rubiamo agli immigrati decine di milioni l'anno di contributi silenti, i contributi previdenziali di cui poi loro non usufruiranno poi pensione. Il nostro sistema... Quelli che noi paghiamo molte volte alle colf, che poi loro tornano al loro paese e non li prenderanno mai. Appunto, decine di milioni, è un furto ignominioso, ma noi parliamo di cittadinanza. Il problema è che si ragiona sulla base di un assunto sbagliato. Gli immigrati non vogliono stare in Italia. Ed è di destra. È reazionario, è quasi imperialista, uso il termine apposta per provocare, pensare che noi li dobbiamo integrare nella nostra società in maniera definitiva. No, noi dobbiamo dare loro tutti i diritti, assolutamente tutti, uguali ai nostri, eccetera, ma permettere loro di fare quello che loro vogliono fare. C'è un unico studio statistico serio su quello che gli immigrati vogliono fare, è fatto dal ministro degli interni Amato di sinistra nel 2006, da cui risulta che il 75% degli immigrati vogliono tornare a casa, non vogliono integrarsi, esattamente come è successo nell'immigrazione italiana in Germania e in Belgio. L'immigrazione moderna non è più quella. E quindi quale sarebbe, scusami Panella, il motivo? Te lo traduco così sarò più brutale di te. Tutto questo ha un fine politico, che vogliono acquisire voti a una parte politica che li sta favorendo. No, è proprio un'ideologia sbagliata. Noi dobbiamo... I migranti sono qui non per scelta libera, sono qui perché avevano fame. Noi dobbiamo fare, noi se siamo di progressisti, solidali, cristiani, dobbiamo fare in modo che gli immigrati non vengano messi, che sono i migliori rappresentanti dei loro paesi, non vengano acquisiti a fare ricchezza all'Italia, ricchezza diciamo umana, culturale, eccetera. Dobbiamo aiutarli. Sono te un bambino però che nasce e vive in una scuola italiana, ha tutta questa voglia. Ma 10 anni, allora l'altro vero problema... Questo è il problema di questa mattina. Guerra, l'altro vero problema su cui la sottosegretaria Guerra le invito cordialmente a occuparsi è lo scandalo di questa signora che è appena intervenuta. Lei dopo 10 anni di soggiorno in Italia ha diritto a diventare cittadina italiana. No, sono stati 14 anni. Invece di perdere tempo in queste demenziali cose che vanno contro la volontà degli immigrati, quale è nei fatti, perché gli immigrati tornano a casa, signori, gli immigrati tornano a casa, al 75% tornano a casa, non vogliono diventare italiani, riguarda soltanto una minoranza, il 20-25%. Quello che è anche accaduto ai nostri immigrati, alla fine chi poteva è tornato a casa, si è fatto la casa e è ritornato a casa. 800240024, oggi parliamo del problema, del dibattito sulla cittadinanza ai figli degli immigrati. Mi diverte che è arrivato un sms, uno dei tanti, lo metto come caso emblematico. Nicoletti, stai diventando sempre più radical chic. Beh, io non mi sembra di essere radical chic. Pongo un problema che sento sulla pelle, su cui sento che c'è un dibattito e mi piace parlarne. E poi non ho ideologia, anzi la mia unica ideologia è la necessità di sovrascrivere ogni mio pensiero puntualmente e giornalmente, quindi figuriamoci. Però mi fa riflettere un fatto, io ho, adesso li farò sentire, decine di immigrati che telefonano, stranieri che telefonano a una radio nazionale italiana per dire la loro, quindi mi ascoltano, quindi parte del mio pubblico è fatto da stranieri, quindi io mi sembra giusto parlare di qualcosa che riguardi anche queste persone, non posso far finta che non esistano. Cecilia Guerra, sottosegretario al Ministero del Lavoro, ricordo delle politiche sociali e pari opportunità, è stata chiamata in causa da Carlo Pannella che rappresenta il fronte di quelli che dice aspettiamo un attimo, ci sono altre cose più importanti, e poi non è così vero che in realtà tutti gli immigrati hanno questo desiderio spasmodico che i loro figli diventino italiani. Beh, dunque, distinguere il discorso tra adulti e bambini, sicuramente c'è un'immigrazione che poi di persone che poi ritornano alla loro nazione, non chiederanno la cittadinanza, il problema non si porrà. Ci sono invece persone che fanno tanti ricongiungimenti familiari e che fanno dell'Italia il loro paese elettivo e quindi chiederanno la cittadinanza e secondo me bisognerà concedergliela. Ma adesso stiamo parlando di bambini. Sì, fermiamoci ai bambini oggi, se no allarghiamo troppo. Ovviamente l'istituto della doppia cittadinanza, non si vuole obbligare nessuno ad avere una cittadinanza se non lavora. vuole, si vuole invece riconoscere il diritto ad essere considerato cittadino italiano per un bimbo che nasce qua, costruisce qua con i suoi compagni, qua con la lingua, qua con le tradizioni, qua il suo percorso di vita. Ovviamente, che sono quelli, onorevole, che più facilmente rimarranno in Italia. Ovviamente al raggiungimento, cioè, siccome possiamo benissimo prevedere la doppia cittadinanza, al momento del raggiungimento della maggiore età decideranno in piena libertà se, dovendo esercitare i diritti civili, scegliere la cittadinanza italiana o quella del paese di origine dei loro genitori. Però non stiamo imponendo niente, ma stiamo riconoscendo un diritto. Fra l'altro, siccome il problema della discriminazione contro gli immigrati è un problema molto sentito nel nostro paese e molto vero, io ho come principio fondamentale l'idea che se le norme non riconoscono una parità di trattamento, quindi un diritto uguale, chi è nato qua, che poi i suoi genitori siano italiani o non italiani, non mi interessa, noi diamo un fondamento stesso alla discriminazione, la giustifichiamo. Quindi io sono proprio favorevole al riconoscimento della cittadinanza su una base di un principio, diciamo, etico fondante che è irrinunciabile, che non dipende dal fatto di essere progressisti di sinistra e di destra, ma di essere persone che credono appunto nel, ecco, nella guerra, vorrei che leggesse altre due parole su un fatto che molti mi stanno scrivendo, che innegabilmente molte volte salta all'occhio, è palese. Alcuni comportamenti familiari, sociali, civili, dati proprio da una stretta osservanza a costumi, a stili di vita, a predominanza di religione, fa sì che molte volte ci si trovi davanti a situazioni difficilmente compatibili con quelli che sono i nostri livelli di civilizzazione e di cultura. Ecco, in questo caso il cittadino italiano dovrà fare a meno di seguire questi comportamenti o avrà una larga maglia di scelta? Io parlo dei casi più estremi di cui mi scrivono, i matrimoni combinati con minorenni, le persone costrette a mettere il velo anche nei luoghi pubblici, i padri che decidono per i figli e via dicendo. Io la mia idea è questa: quando questi comportamenti entrano in casi di violazione delle nostre leggi, dei nostri codici, diventano dei reati a tutti gli effetti, questo vale per l'islamico come vale per il musulmano, come vale per l'italiano, come vale per qualsiasi altra persona. Sono d'accordo con lei, però vorrei anche dire che c'è molta mitologia dietro questo discorso. Cioè, noi pensiamo per esempio, non so, ai pakistani, faccio per dire, che uccidono le donne, che non fanno quello che dicono i loro padri. Noi in realtà abbiamo avuto in Italia, a venire adesso, 50-60 femminicidi, uccisioni di donne, fatte in larghissima parte da coniugi, amanti, compagni, fratelli italiani su italiani. Quindi la visione delle donne forse accomuna molto di più molti dei nostri cittadini italiani a questi presunti stranieri che invadono il nostro paese, quindi c'è un discorso da fare e da chiarire meglio anche su questo profilo. Sappiamo anche che una inclusione sociale, un elemento di parità per le seconde generazioni è un fattore fondamentale per permettere una migliore convivenza anche per le prime generazioni. Le seconde generazioni rappresentano un ponte indispensabile, che non significa per forza che tutto debba essere assimilato, quello che noi riteniamo essere il nostro sentire, che poi per fortuna è molto differenziato e variegato, ma significa appunto stabilire delle possibilità di comunicazione, scambio, interculturalità. Le dico, io sono di Modena, ho visto un'esperienza meravigliosa dopo il terremoto. Sono stati costruiti dei campi, nei campi si sono trovate delle persone di etnie diverse, non è stato facile, ma con l'impegno di tutti, stranieri e italiani, si sono state stabilite delle possibilità di convivenza bellissime anche in situazioni così costrette come quella di vivere insieme 24 ore quando prima non ci si conosceva e a seguito di un evento così terribile. Quindi dell'impegno e del lavoro possiamo mettercelo, dei risultati possiamo conseguire. Allora, sentiamo subito qualche voce di immigrato, poi sentirò Miraglia, poi sentirò Pannella. Malik. Sì, pronti? Sì. Ah, buongiorno. Mi scusi, io volevo intervenire per la trasmissione, effettivamente vi ringrazio. Insomma, lei da dove viene, Malik? Sono senegalese. Senegalese, sì. Sì, ogni mattina vi seguo, insomma. Io vedo il nome e non vedo la faccia, quindi non posso saperlo se non me lo spiego. Sono senegalese. Niente, comunque, insomma, parlando degli immigrati che sono nati qua, e soprattutto anche noi che siamo arrivati. Lei, insomma, ha figlie, Malik? Io ho due figlie. Quanti anni hanno? 5-6 anni. Ecco, il suo interesse, il suo desiderio che diventino italiane, siano cittadine italiane, oppure abbiano tutti i riconoscimenti, tutti i vantaggi possibili, poi un domani torneranno in Senegal a fare la loro vita? No, per me, cioè, che diventano italiani, che abbiano tutti i diritti, sarebbe meglio per me. Però, avendo vissuto qua in Italia direi insomma 19 anni in cui sei l'ho passato in clandestinità e poi da loro da allora sono arrivato che mi sono regolarizzato. Cosa fa adesso Malik? Cosa fa Malik? Lavoro in un panificio, ecco. E quando era clandestino cosa faceva? Ah, andavo in giro a fare la compra, cosa puoi fare? Ah sì, vendeva le borsette. Quindi in questi 19 anni, conoscendo, parlando con la gente, vedendo la gente, ho vissuto qua in Italia, sono 19 anni, conoscendo i miei amici, qualcuno che andava alla scuola, qualcuno che è arrivato all'università, che non riuscivo neanche a... Ecco, lei come vede però il futuro della sua famiglia, Malik? Tornare in Senegal quando avrete fatto... È emblematica, insomma, cioè, tornare in Senegal, sarò costretto a tornare in Senegal, sì, la mia famiglia, insomma, non riuscirò a avere quella legalità con... l'altro bambino che ho di fianco, perché il mio figlio, la mia figlia che ha 6 anni, fra 10 anni, 15 anni dovrà andare all'università, se ha un permesso di soggiorno gli diranno: oh ragazzo, questo permesso di soggiorno è scaduto, come fa? Però diciamo il futuro, il loro futuro adesso sarebbe di studiare in Italia, lei penso questo voglia dire, non voglio suggerire. Ma effettivamente però insomma bisogna sempre vedere come la pensano la gente, anche insomma volendo, cioè, devo anche far vedere ai miei figli dove sono anche, credo, dove sono anche arrivati. Vabbè, okay, perché... questa è chiaro, Malik. Gazmir invece è albanese. Sì, buongiorno. Sì. Salve, no, vedo che anche lei, buongiorno Nicoletti, anche lei chiede insomma come panella, che l'intenzione degli immigrati. Io, sì, perché mi sono interessato a capirlo. Lei ha un figlio? Io ho una figlia di 11 anni, le dico un'altra cosa, guardi, noi ormai siamo diventati con la doppia identità, cioè voi state alla fine chiedere l'intenzione, la nostra intenzione, quando noi siamo da 15 anni qui, che intenzioni vuole da me lei? O che intenzioni... Non voglio niente, le faccio una domanda, non voglio nulla, Coletti, faccio solo una domanda, no, lecito, può anche non rispondermi. No, ma... è giusto, Nicoletti, il problema è che queste domande ormai sono da 20 anni. Io la faccio adesso, qualcun altro l'ha fatta 20 anni fa. No, mi risponda allora, sua figlia ha 11 anni, lei cosa vorrebbe per sua figlia? Qual è la sua profonda desiderio nei confronti della bambina? Che diventi italiana o che faccia quello che può fare qui in Italia e poi se ne torni in Albania? Ma mia figlia, a prescindere dal fatto della concessione della cittadinanza, è italiana, mi spiego? Cioè il problema è della democrazia, delle parità di diritti, è quello il problema. Vabbè, è chiaro. Hassan, chiudiamo, l'ultimo Hassan. Sì, no, buongiorno. Di dove sei? Dove è lei Hassan? Del Marocco. Marocchino, davvero. Io vi ascolto da quasi 10 anni, io sono 25 anni che vivo in Italia, ho 4 figli, ormai sono figli, 18 anni, 16, 10 e 4 anni, sono italiani. Sono fieri di diventare italiani perché noi abbiamo lottato parecchio tempo per darle un'identità. Si parlava prima di un'integrazione sociale, ma penso che dare la cittadinanza ai immigrati così, penso che è un fatto di inclusione sociale perché si sentono marginati. E poi un tema che lei ha affrontato oggi, che tanti politici hanno soltanto sfiorato perché hanno paura di affrontare questo tema qua, e riguarda ben oltre 5 milioni di nuovi cittadini. Fermiamoci qua, io non nulla da guadagnare, nulla da perdere a trattarlo, faccio il mio mestiere. Allora, molto velocemente, Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'ARCI, mi fai i dati rispetto agli altri paesi europei, com'è la situazione dei figli degli immigrati rispetto riguardo alla richiesta o l'ottenimento della cittadinanza? Sì, molto velocemente, anche per dire appunto che non è che si tratta, diciamo, di nascondersi dietro un'ideologia, si tratta di capire quali sono le cose che servono. In Europa ci sono gli altri paesi, diciamo, paragonabili all'Italia, diciamo la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, dove negli ultimi 5 anni c'è una media di concessione di cittadinanza, quindi di stranieri che diventano o francesi o tedeschi o inglesi, che sono in Francia di 140.000, in Gran Bretagna di 160.000 e in Germania di 110.000. In Italia siamo intorno ai 50.000. Questo cosa vuol dire? Che l'Italia è un paese dove centinaia di migliaia, noi ne seguiamo tanti di questi casi, centinaia di migliaia di stranieri chiedono di diventare, di naturalizzarsi. Oltre agli 80.000 bambini che nascono e rimangono stranieri fino a 18 anni ogni anno, ci sono centinaia di migliaia di stranieri che chiedono di diventare italiani. Il problema non è capire le intenzioni, le mostrano loro con questa domanda, e il Ministero dell'Interno o risponde negativamente o non risponde, quindi diciamo, cioè risponde dopo tanti anni. Qui cosa manca? Ci vuole una riforma che dia certezza del diritto, cioè che se le persone rispettano alcune condizioni, un tot di anni di residenza, il matrimonio, o appunto nel nostro caso noi pensiamo, abbiamo promosso una legge di iniziativa popolare, se uno nasce in Italia da genitori stranieri che hanno, sono residenti in Italia, diciamo così, normalmente perché lavorano da un anno, possa ottenere la cittadinanza non in maniera discrezionale. Oggi è discrezionale, cioè lo Stato può concedere la cittadinanza a chi fa domanda, ma può anche non concederla, e questo fa dell'Italia un paese che diventa sempre più un paese di stranieri, a prescindere dalla volontà degli stranieri. Gli stranieri vorrebbero diventare italiani, ma non ce la fanno, e quindi noi rischiamo nel giro di pochi decenni di diventare un paese in cui c'è una componente di stranieri eccessiva, e questo fa, separa, e voglio dire solo un'ultima cosa: questi bambini che nascono in Italia e diventano stranieri per 18 anni saranno una generazione che si sentirà maltrattata da questo paese, e il rischio è di creare, che si radicalizzino nelle posizioni, di creare barriere tra lo Stato italiano, tra la società italiana e questi bambini, che non servono a nessuno, barriere che possono solo farci male, solo far male alla democrazia. E questo, per questo noi diciamo, se un bambino nasce in Italia da genitori stranieri gli va riconosciuta la cittadinanza italiana subito, non aspettando 14 anni. Fermati. Carlo Panella, giornalista, hai ascoltato diciamo le posizioni di Miragli, hai ascoltato qualche migrante. Vediamo di ribadire o integrare quello che hai già detto prima rispetto alla tua posizione, che invece dice non è un desiderio degli immigrati, è un desiderio che artificialmente viene indotto. Questo è un dato di fatto, cioè se si guardano le statistiche, soprattutto se si facessero le statistiche, si vedrebbe che non, la minoranza di stranieri vuole diventare italiano. E il problema è che non capisco come non colgano gli interlocutori il conflitto costituzionale, la violazione della Costituzione, che c'è. Un bambino che fino a 18 anni rimane in Italia e non è cittadino italiano, vuol dire, un bambino straniero nato in Italia, vuol dire che suo padre non vuole che diventi italiano, perché avrebbe avuto la possibilità, quando lui aveva 18 anni, di chiedere la cittadinanza. E se lui non la chiede, non è che lo Stato italiano gliela attribuisce per forza. Qui il problema, come mi sembra aver capito, che è così, la legge non lo consente. La legge non lo consente al momento. Cosa? Solo per gli adulti. Uno deve stare 10 anni in Italia, può chiedere la naturalizzazione. Questo succede per gli adulti. I bambini devono aspettare di avere 18 anni. Ma se il padre non l'ha chiesta, Guardi, se il padre non l'ha chiesta, io perché gliela devo dare? Ma il problema, Miraglia, è che anche il non la può chiedere. Il padre non la può chiedere. Per se stesso sì, ma non per i figli. I figli devono aspettare 18 anni. Ma lui, Panella, dice, se il padre non la chiede per sé. Cambiamo la legge, facciamo in modo che quando il padre chiede per se stesso, automaticamente la società... Ma il bambino non è... Va dai bambini. Ma il problema è esattamente questo. Uno, per favore fate le statistiche. Non ci sono statistiche serie sulla permanenza degli italiani, sulla loro volontà. C'è soltanto questa inchiesta del ministro degli interni Amato. Secondo, per favore, invece di parlare di questa ideologia che divide il paese, lavoriamo tutti insieme per fare in modo che non succedano questi scandali dei 4, 5, 6 anni perché un immigrato che ne ha diritto diventi italiano. Questo è il vero problema. La signora che prima diceva da 4 anni ho chiesto la cittadinanza e non mi viene data, ma questo è lo scandalo. Certo. Facciamo in modo che uno possa chiedere la cittadinanza all'ottavo anno di soggiorno in Italia, in modo da anticipare i tempi, e poi negli altri 2 anni le autorità possono vagliare la loro posizione. Parliamo di cose concrete, e soprattutto, per favore, separiamo il problema dei diritti, che devono essere pieni, totali ed uguali per tutti, italiani e immigrati, dalla cittadinanza, che è una scelta di appartenenza ad una comunità nazionale, che è tutt'altra cosa. Panella, correggimi se non ho capito male. Nazionale. Vorrei sintetizzare, se non ho capito male, il tuo pensiero. Tu dici, se l'adulto immigrato non si sente il desiderio di chiederla per sé la cittadinanza, perché dovrebbe poi avere piacere che il figlio la abbia? Questo è il fatto. Sarà un affare del figlio. No, non è un problema costituzionale, è lui che esercita la patria potestà. Il figlio a 18 anni è libero, lui la può chiedere e ha un anno di tempo oggi con questa legge. Perché dovrebbe dipendere da una scelta paterna? Il genitore lo può chiedere per sé, non lo può chiedere per il figlio. Il figlio a 18 anni, siccome diventa adulto, può chiedere, ha un anno di tempo per farlo, di diventare cittadino, ma lo fa di sua spontanea volontà. Ci fermiamo che la sigla ci porta via, non vorrei lasciare il pubblico con questa confusione. Mi sembra capito che l'argomento è molto complesso. Le prese di posizione sono state espresse tutte, si faccia poi il pubblico, che è parte composto da vari stranieri, l'ho capito, il suo parere. A domani.